Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti da Anna Marino a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Questa è una puntata speciale dedicata agli start-uppers e alla Due Giorni che li ha visti protagonisti lo scorso 21 e 22 giugno tra Milano e Monza, a cura di Nova, Il Sole 24 Ore, Radio 24, Startupami, Startup Business e di Regione Lombardia e Provincia di Monza e Brianza. Decine di innovatori, tecnologi e creativi con progetti di impresa in erba si sono presentati alla Fiera delle Startup in stand multicolor dotati di ombrellone, a una platea di addetti ai lavori, incubatori, venture capital e business angel. E durante i workshop abbiamo raccolto le storie degli start-uppers che danno istruzioni per l'uso per chi vuole avviare un'attività, come si entra in un incubatore, a cosa servono gli acceleratori, cosa chiedono in cambio i venture capitalist. Abbiamo chiesto di presentarsi come in uno spot ad alcuni di loro. Iniziamo da Money Farm. Sono Giovanni Dapra, sono il cofondatore di Money Farm. Perché start-up? Perché io dopo 5 anni di carriera tra virgolette in investment banking a Londra avevo capito che il mondo della finanza stava cambiando, ci sono modi di farlo cambiare, ci sono modi di offrire servizi più vicino al consumatore, quindi ho deciso di fare la mia strada e mettere in piedi Money Farm. Quanti anni hai? 28. Che cosa fate e qual è l'idea? Money Farm vuole offrire un prodotto di investimento destinato ai piccoli risparmiatori. Quello che facciamo è un servizio di consulenza finanziaria online, quindi la persona che ha da 20, 30, 50, 100 mila euro da investire, che secondo noi oggi non trova una risposta nel mondo finanziario tradizionale, viene da noi, si profila online e gli costruiamo un portafoglio composto da exchange traded funds, fondamentalmente costruito con le tecniche di asset allocation che usano i grandi investitori istituzionali. Chi vi ha aiutato e chi vi ha ostacolato? Allora, aiutato direi due fondi che ci hanno dato seed capital, che sono Jupiter Ventures e Annapurna Ventures, che ci hanno finanziato la prima parte dell'idea. Ostacolato per il momento direi nessuno, sicuramente il sistema italiano a volte non aiuta. Il vostro sito? www.moneyfarm.com. I siti che volete consigliare? www.moneyfarm.com. E ora è la volta di Happy Wi-Fi. Allora, io sono Paolo Brambilla, sono milanese, non posso negarlo, e a Milano siamo partiti con Parco Sempione, a Torino anche con Parco del Valentino, per dare Wi-Fi gratuito a tutti. La gente arriva, apre il proprio smartphone, il proprio tablet, il proprio PC e naviga liberamente. Come abbiamo realizzato questo? Facendoci finanziare dagli sponsor. Quando uno ha un'idea di marketing interessante va dai direttori marketing di 100 aziende e 10, 8, 6, una dice: bella idea, vi promuovo, vi do un finanziamento, vi permetto di montare le antenne e di trasmettere liberamente a tutti. Il vostro sito e che cosa consigliate, diciamo, a chi vuole mettersi in proprio? Allora, il sito si chiama Happy Wi-Fi ed è ovviamente reperibile su internet in qualunque posto, però se uno va al Parco Sempione o va al Parco del Valentino trova subito la connessione a Happy Wi-Fi, si connette dal proprio numero di telefono, riceve la password del tutto gratuitamente e naviga 24 ore al giorno, non cade la connessione dopo un'ora, non cade dopo 10 ore, non cade mai. In realtà ci piacerebbe molto trovare anche dei venture capitalist che ci permettano di fare altre città. Oggi abbiamo fatto Milano e Torino, domani possiamo fare decine di altre città in Italia. Ci vogliono un po' più di investimenti. Ed ecco le quattro startup premiate durante il workshop che si presentano una ad una per dare le dritte a chi vuole spunti utili e veloci. Sostituisce la carta dei vini, appunto cartacea, con un menu su iPad questa idea. Wine Amore, www.wineamore.com, presenta la carta dei vini digitale, come la spiega Sergio Cocco, uno dei co-fondatori. Eravamo al tavolo, io e mio compagno di master, Anna adesso socio, e abbiamo ordinato per due volte un vino e per due volte ci hanno detto che non era disponibile in cantina, al ristorante. L'iPad era nato pochi mesi prima e da lì abbiamo capito che l'iPad poteva risolvere questo problema e oltre a questo risolverne tanti altri, non solo l'aggiornabilità ma contenuti in varie lingue, ricerca interattiva eccetera. E chi vi ha aiutato? Qual è stata appunto la leva che vi ha fatto fare la svolta? Sicuramente devo fare un plauso alla Camera di Commercio di Bergamo che con veramente un investimento minimo ci ha dato la possibilità di aprire un ufficio e anche di darci qualche aggancio sul territorio con i produttori di vino locali con cui siamo andati al primo Vinitaly. Diciamo che da lì è nato tutto. Ecco, il vostro sito e che cosa pensate di fare come numeri e diciamo come fatturato? Contiamo di raggiungere entro l'anno intorno ai 500 ristoranti clienti e come fatturato a tendere, puntiamo nel giro di 5 anni, di fare un fatturato intorno ai 10 milioni di euro. Frequentatori del sito? I frequentatori del sito principalmente sono ristoratori, ovviamente è un B2B per oggi, arrivano da tutto il mondo quando facciamo le campagne Google e diciamo portati sul sito grazie alla stampa principalmente specializzata quando abbiamo della visibilità sulla stampa che va sul target dei ristoratori. Si è messo in proprio da un momento all'altro? Hai sempre lavorato in questo campo? No, io sono stato dipendente per tanto tempo, e dipendente in realtà però di start-up tecnologiche, e arrivato a 38 anni ho deciso di provarci da solo. A 24 anni Alessandro Biggio è con la sua squadra 20 Line ha vinto un premio per la sua idea di rinnovare la scrittura creativa. 20 Line è una piattaforma di social publishing che permette a tutti quanti di diventare autori. Come? Tramite la scrittura collettiva e la lettura interattiva. Infatti, chiunque può scrivere un incipit di massimo 20 righe e lasciare che siano gli altri utenti a proseguire questo incipit fino a creare una storia breve composta da 6 sezioni di massimo 20 righe ciascuna. La cosa bella è che ogni sezione può essere riscritta a tutti gli utenti. Questo fa sì che dallo stesso incipit si diramino infinite storie. A questo punto entra in gioco il lettore, che appunto interagisce con la storia, esprimendo il suo gradimento, commentando o condividendo le varie sezioni sui social network. Questo fa sì che si crei un ramo, tra cui gli infiniti sono creati, che sia quello preferito. E questo verrà pubblicato e venduto sotto forma di ebook su Amazon e iTunes, e l'utente sarà finalmente diventato autore. Chi vi ha aiutato a mettere in piedi la vostra idea? Qual è stata la svolta? Beh, diciamo che il fatto di avere un team comunque sia molto eterogeneo, composto da 5 persone, 5 co-founder e 5 collaboratori, ci ha permesso di, unendo le nostre capacità, sviluppare appieno l'idea e lanciarla durante il Salone del Libro di Torino lo scorso 12 maggio. Chiaramente il supporto è stato importante da parte di personaggi come Emila Birashid, Startup Business, oppure H-Farm, presso i quali siamo adesso pre-incubati, per così dire, in una fase appunto di prova. Chiaramente essere parte di questo network è un facilitatore molto molto importante per una startup come la nostra. Numeri, quante persone vi seguono e che cosa pensate di fare anche come fatturato? Beh, allora noi abbiamo già una community di 700 utenti registrati, di questi circa un terzo sono scrittori, quindi hanno creato dei contenuti per arrivare a circa 8.000 righe di testo scritte e 20 storie pubblicate. Infatti il primo ebook è disponibile online e lo dico per tutti quanti che li stanno ascoltando, possono andare su 20lines/sole e scaricare il primo ebook gratuito. In futuro chiaramente speriamo di mettere in pratica quelli che sono i canali di revenue che abbiamo individuato al fine di generare appunto un flusso continuo. Progettano e sviluppano da ormai 10 anni siti web e portali innovativi. 33 anni, Massimo Ghiaruzzi ci racconta l'idea di Adespresso. L'idea è nata, diciamo, a settembre dell'anno scorso. È nata principalmente per un'esigenza nostra, come tutte le idee migliori, secondo me. Noi inizialmente siamo una web agency e gestendo campagne di advertising Facebook per molti clienti ci siamo rotti le scatole di passare ore a inserire manualmente gli annunci Facebook per i nostri clienti. Per cui abbiamo pian pianino iniziato a fare degli strumenti semplici per facilitarci la vita. Poi abbiamo deciso anche, visto la crisi e comunque un prodotto è molto più scalabile che un servizio di web agency, di provare a lanciare il prodotto. Che cos'è che vi ha aiutato a appunto dare la svolta, cioè partire dall'idea e arrivare a una sua realizzazione? Probabilmente la cosa che ci ha aiutato di più è stato il nostro background, perché avevamo già all'interno dell'azienda tutte le competenze tecniche e un team molto affiatato, che è importante, lavoriamo insieme da 10 anni tutti quanti. E inoltre anche il fatto di aver lavorato molto con clienti stranieri che ci hanno facilitato molto nell'avere i contatti con Facebook direttamente negli Stati Uniti e fare una partnership con loro. Il vostro sito, i numeri, le prospettive? Il nostro sito è adespresso.com, in questo momento siamo in private beta, quindi non abbiamo grossi numeri, ma abbiamo già 400 utenti in coda per testare il servizio. A settembre partiremo con la versione commerciale e speriamo che i numeri siano ottimi. Chi pensava che il mondo dell'advertising avesse raggiunto il limite massimo di sviluppo e non presentasse più margini per l'innovazione non conosce ancora Bulsara Advertising. È concessionaria leader in Italia nel settore del toilet advertising, la comunicazione pubblicitaria all'interno dei servizi igienici. Federico Rösler, Franz. Noi siamo la concessionaria leader di spazi pubblicitari all'interno dei servizi igienici in Italia. Quindi quello che facciamo è ricreare all'interno dei servizi igienici di struttura ad alto profilo il mondo del brand che si promuove, così che l'utente, una volta entrato in un bagno di una struttura ad alto profilo, che può essere cinema, teatro, università, biblioteche, musei, si trova immerso in un mondo che vivendo un'esperienza, quindi un mondo che è legato al brand. Chi vi ha aiutato a realizzare questa idea, soprattutto come avete fatto a fare una svolta e diventare business, ovviamente? Io ho cominciato personalmente con 3 miei ex colleghi dell'università, con i quali ho condiviso 5 anni di studio. Poi siamo andati avanti sul mercato, siamo attivi da circa un anno, adesso siamo in fase fundraising per accelerare il processo a livello nazionale. In realtà abbiamo iniziato con le nostre risorse, non avendo costi fissi troppo elevati, e tuttora siamo solo noi 4 soci, senza finanziamenti esterni. Ovviamente abbiamo il supporto di alcuni mentor che ci seguono, che conosciamo, però non interni al capitale. Come intendete sviluppare, a chi vi intendete rivolgere per sviluppare il business? Noi adesso ci stiamo rivolgendo a investitori che credano ovviamente nella cosa e prevalentemente investitori legati al mondo dell'advertising, quindi che abbiano un network collegato a quello che facciamo, che possano ovviamente offrirci insieme alle competenze in termini economici anche una competenza proprio a livello di network, di relazioni, conoscenze. Ecco, i numeri, diciamo, fino adesso quanti contratti, cosa avete fatto? Siamo attivi in Roma, su Roma in circa 20 strutture, e altre 10 sono in fase di trattativa avanzata, stiamo replicando il business su Milano e a livello nazionale nelle strutture più rilevanti in termini di contatti, quindi siamo in una fase abbastanza calda. Abbiamo fin qui sentito le storie di chi si sta battendo con tutte le forze contro la crisi. Sono le nuove generazioni di piccole e medie imprese che hanno trovato la via d'uscita trasformando le idee in progetti che fanno fatturato. Le hanno costruite da soli, con le proprie mani o con il trampolino di incubatori, università, camere di commercio, business angels. E sono proprio gli imprenditori in prima persona che si sono raccontati e si raccontano per dare le dritte giuste a chi non sa come iniziare un sogno di impresa. Svelano come hanno fatto a pensare e realizzare le loro innovazioni, abbattendo gli ostacoli per far nascere nuove aziende e start-up, oppure per far ripartire settori tradizionali che annaspano. Ascoltarli vale mille astuzie, istruzioni per l'uso, siti utili, suggerimenti per farcela e per dare voce alle piccole realtà che possono incoraggiare la nascita di nuove imprese vincenti. Voci di piccola impresa oggi si chiude qui, ma sul sito troverete le indicazioni per le vostre segnalazioni e altre storie di imprenditori troveranno spazio la domenica sera alle 20:15 in Voci d'Impresa. Ascoltarle, appunto, vale mille astuzie. Un saluto da Anna Marino.